Mario, buongiorno. Buongiorno, sono Mario, complimenti per la trasmissione. Andiamo con i consigli. Senta, io con mia moglie siamo sposati da molti anni, oltre 66 anni, e si telefona per prenotare perché si vuole ricelebrare le nozze in dei ristoranti non pretenziosi perché è una cerimonia abbastanza intima, 20-25 persone, quindi accessibile a tutti i ristoranti per fare un pranzo alla carta, insomma. E poi si va per assaggiare un menù così che si pensa di fare e di solito ci offrono la cena per, in attesa poi E poi non, naturalmente della non la festa. fate mai la cena. E poi la rinviamo perché tra un bisticcio e l'altro si rinviano le Ma nozze, quante però volte avete, diciamo, preannunciato queste nozze d'argento? ma tantissime volte. E ce lo offrono perché dice questo è il nostro regalo di Vabbè, siete una coppia nozze. delinquere, scusate, vi avranno No. segnalato in tutti i ristoranti del regno. No, sulla guida Michelin ci hanno messo. Quando andate lì, mangiate come bestie, dicendo, no, buono, questo mi No, non piacerebbe avere. come bestie perché si preferisce assaggiare delle cose molto delicate, insomma, Ma per fate fare la una. mossa di pagare oppure nemmeno fate la No, mossa? io chiedo sempre il conto, no, E la loro dicono: mossa, no, non chiedo il importa, conto, facciamo poi. esatto. No, io ho chiesto sempre il conto, mai la mossa. Sì, E però sono loro potete che poi. fregare soltanto un ristorante una volta, però dopo dovete cambiare. Ma chiaramente, no, ma andiamo in diverse città, così quando si va per weekend in giro, Ah, è insomma, poi una non. bella idea dire: guarda, dobbiamo fare una cena di 25-30 persone, vorremmo assaggiare il Esatto, menù. E sì. quelli vi Ma offrono il prezzo. le assicuro che proprio gentilmente ci hanno sempre offerto la Eh cena beh, normalmente, chiaro, chi è che fa anticipare una cena quando ne arrivano 25? Ecco, Normale. poi un pranzo alla carta dove magari si può spendere 100-120 euro, insomma. E poi sono ristoranti normali, diciamo, che vanno tutte le non da cerimonie, ecco. Beh, quindi vi tenete a una media qualità di E poi ristorante. si capita a Roma, si capita a Napoli, si dice che si celebrano lì le nozze, anche se viene da fuori, perché abbiamo degli amici lì e È così, insomma. interessante, interessante.